Le tre parole che avevamo erano ciauscolo, barracuda e tatuaggio. Il ciauscolo, per chi non lo sapesse, è il salume locale, il più conosciuto salume della, delle Marche. Un salame spalmabile. E non solo. E non solo. Buongiorno, buongiorno a tutte le persone in ascolto, sono Giorgio Lantuzza qua da Fiastra News. Oggi apriamo il nostro notiziario con una notizia veramente incredibile. C'è giunta notizia che sul lago di Fiastra si stanno consumando degli episodi sanguinosi che hanno messo in allarme gli abitanti. Non si sta capendo bene cosa sta accadendo, ma abbiamo il nostro inviato sul campo che adesso ci aiuterà a capire un po' meglio perché, il perché di queste segnalazioni. Quindi passo la linea al nostro inviato Marino Semitono, che ci dirà un po' meglio cosa sta succedendo in quel luogo. Sì, grazie per la linea. Guarda, qua la situazione è veramente drammatica, c'è panico dappertutto e sembra che ci siano stati degli attacchi notturni aggressivissimi, non si capisce bene, il lago forse è popolato da creature misteriose, ma adesso qui ho una turista che è stata testimone della vicenda. Prego, ci dica. I don't know what to say, I'm sorry, I was just coming, I was, I'm sorry, I'm just a little bit stressed, I was traveling with my friends. We wanted to just have fun in the lake. They told us there was amazing lake with a beautiful water, magical water. But suddenly one of my friends just got bite and we don't know what to do. I'm super stressed and oh my God. How can we find some solutions? Ma c'era sangue? C'era sangue? There's blood. Era un pesce? Era un pesce? I don't know, I cannot see. I think un barracuda? We saw something weird. I think it's a barracuda. Barracuda, era un barracuda, signore. Allora, notizia incredibile, barracuda nel lago di Fiastra. Incredibile. Barracuda, un pesce a queste latitudini nell'acqua dolce. Ma questa cosa è possibile? Lo chiediamo al nostro esperto climatologo della zoologia, Franco La Marmola. Lei ha un master all'Università dell'Illinois, vero? Sì, ne ho due all'Università dell'Illinois, tre a Chicago invece, e cioè, è sotto gli occhi di tutti il fatto che sono episodi che il climate change porta e porterà ancora di più nel futuro. Quindi c'è poco da stupirsi, un barracuda nel lago di Fiastra non fa primavera ma fa climate change, mi viene da dire, scusate l'ironia. Ma le informazioni di questo genere sono moltissime, un tucano al Duomo di Milano, non so se ha letto la notizia l'altro giorno, i pesci palla nel lago di Garda sono ormai all'ordine del giorno, quindi io sento di tranquillizzare tutti, anzi cerchiamo di adattarci a queste novità che arrivano. Il barracuda alla griglia è ottimo, accompagnato dal verdicchio, io ve lo consiglio. Prendiamo anche ciò che di buono arriva da questi cambiamenti climatici. La ringrazio, professor Lamarma, la ringrazio, come sempre, gentilissimo. Ma non tutti la pensano così sulle sponde del lago di Fiastra, ai margini della nostra civiltà. C'è una local person che ha un parere differente, ci dica. E che te dico, Goku? Ma ecco, è sempre stato così, non è mai stato un problema. In realtà il ciauscolo è stato fatto proprio per questo, capito? Cioè, se te vai a scarafottaio per le tofe e vedi la valle di Fiastra con l'acqua al limbo che è tozzozzetta, però non ti devi preoccupare. Lo barracuda c'è sempre stato e lo ciauscoletto ti serve proprio per quello, perché ci sta quello lo colle là dietro con tutto pieno di tatuaggi. C'ha un tatuaggio particolare, particolarissimo, è l'unico che c'ha lo tatuaggio, è un tatuaggio del barracuda, è col ciauscolo, già è scuritto, quello che si fa con la salata o la pista là verso Macerata, dopo dipende, capito, tu stai, lo chiami come te pare, E praticamente questo c'ha il suo tatuaggio barracuda, è l'unico sulla faccia della terra che può veramente ha stoppato tutti questi pesci che sta là dentro, tra cui lo barracuda, che è l'unico modo con la magia magica dello ciauscolo per stopparlo. Però non ti preoccupare, Goku, perché se te sbici là sotto che cosa succede, però con lo ciauscolo ti difendi sempre, capito? Con lo ciauscolo, lo sempre, state calmissimo, okay. È sempre stato cucina, leggenda storica, non ti preoccupare. Possiamo tranquillizzare gli ascoltatori a casa. Tranquillissimi, è sempre stato così. Che devono portare il ciauscolo. Sempre. Benissimo. Pure nonna lo diceva, non ti preoccupare. Qua da Fiastra è tutto, semitono la linea in studio. Grazie mille, un'altra incredibile notizia risolta dal nostro giornalista d'inchiesta. Quindi mi raccomando, venite a visitarci, picnic sulle sponde del lago di Fiastra con ciauscolo e barracuda alla griglia. È tutto.